L'archivio Ferré nasce proprio per la volontà di mettere a disposizione del pubblico l'attività svolta da Gianfranco Ferré. Rita Iraghi, lei è il direttore generale della Fondazione Ferré. Penso che voi non vi siate mai posti il problema, come invece è accaduto ed accade per altri archivi della moda, di non farvi copiare. In fin dei conti, Ferré ormai è proprio una parte della storia della moda. Sì, non è questo il problema, anche perché vedo Ferré dappertutto lo stesso, anche senza l'archivio, ma lo dico con soddisfazione, vedo che nelle tracce del lavoro dei giovani stilisti c'è la sua presenza, quindi vuol dire che il suo lavoro è conosciuto e ammirato. Ovviamente l'archivio vuole essere qualcosa di più, vuole servire non soltanto i giovani creativi, ma essere, al di là della celebrazione e del ricordo del suo lavoro, soprattutto uno strumento di approfondimento per il lavoro di altri. Toccare, avere materialmente tra le mani le cose di Ferré, che effetto le dà e che cosa le ha fatto scoprire magari che ancora non conosceva. Toccare per me significa molto perché intanto è parte della mia vita. Io ho lavorato con Gianfranco da quando eravamo studenti, sono anche legata da famiglia a lui, quindi ogni documento, ogni pezzo, ogni carta rappresenta qualcosa di quello che ho vissuto. Mi fa molto piacere vedere che si emozionano anche altri, soprattutto i giovani o degli stagisti che stanno facendo magari un lavoro manuale banale come quello della scannerizzazione o della conta proprio dei numeri, dei disegni, che si commuovono, che si emozionano, che si rendono conto di avere in mano dei pezzi unici. Quindi vuol dire che lì dentro c'è molto di più del lavoro di una singola persona, c'è veramente un patrimonio che i giovani sono in grado di apprezzare e allora non può stare chiuso, deve essere visto e conosciuto. L'archivio Ferré comunque non ha ancora una sede ufficiale, neanche il Comune di Milano ha saputo o ha voluto trovare uno spazio che fosse adatto. Polemica? No, non la voglio fare anche se poi la faccio tutti i giorni. La sede attualmente è uno spazio abbastanza piccolo, sufficiente per dei computer, dei telefoni, dei contenitori accatastati per terra. Ovviamente il mio obiettivo è quello di avere una sede invece in cui la gente possa entrare e realmente accostarsi sia all'archivio vestimentario, quindi vedere da vicino il vestito, le lavorazioni, le preziosità di certe soluzioni, sia il disegno piuttosto che il documento, la lettera, la fotografia. La città di Milano per il momento ha risposto in una maniera formalmente corretta dicendo che spazi demaniali comunali a disposizione non ce ne sono, ma devono essere sottoposti a un bando, il che vuol dire grazie, buongiorno. Allora, evidentemente la moda a Milano interessa per certi versi, ma non è concepita come un fenomeno che deve avere una sua logica e coerente politica culturale che né il comune né altri enti hanno voglia o sono in grado di fare. Quindi per voi lo spazio, il mondo di internet potrebbe essere una soluzione alternativa? Internet è sicuramente un contenitore, però io lo vedo come un contenitore globale perché effettivamente raggiunge tutti e dovunque, ma parziale per le sue dimensioni, anche perché internet impedisce un aspetto fondamentale della moda che è quello del tatto, del rumore di una seta, di un vestito che si muove, della possibilità di esaminare dal di dentro come è fatto un vestito, come è fatto un accessorio. Quindi è la mia prima sede internet. Nel giro di credo 2 mesi il sito sarà visibile. Internet sarà il figlio dell'archivio nella misura di un 10% di materiali, ma sicuramente insufficiente.